Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Avevo 16 anni, ero felice e solo all'inizio di una promettente carriera sportiva. Correre era diventato essenziale, indispensabile. Adoravo il tartan della pista, il suo colore rosso, le mie scarpette chiodate. Ero felice. Chi avrebbe potuto fermarmi? Ciao a tutti, sono Attilio Mondellini, vivo in provincia di Ferrara, ho 47 anni e ho una famiglia, un bellissimo bimbo e faccio, mi occupo di vendite nel settore farmaceutico. Praticamente la nostra rotta, se questa è Sud America, questo è l'Equatore, abbiamo girato attorno a Capo Horn, siamo risaliti, probabilmente succederà questa notte, siamo in una fase di delicata perché siamo molto vicino al centro, andiamo a cercarci il sud-est, strambiamo e poi andremo dritti verso l'Equatore e ci arriveremo, ci mancano 2500 miglia all'Equatore, quindi ci arriveremo fra un po' di giorni. A quel punto ci sarà un'altra alta pressione davanti al Nord America e dovremo fare la stessa cosa al contrario, quindi di bolina per arrivare su San Francisco. La prima volta che ho visto Giovanni Soldini era ad una conferenza in un posto a Milano, in un teatro, credo 10 anni fa. Era da poco successa la cosa che lo ha reso famoso, no? Per cui mentre navigava da solo in oceano, e stava facendo una regata ovviamente, invece che raggiungere il traguardo andò a salvare, non ricordo più il suo nome, comunque la navigatrice francese che aveva scuffiato e si trovava all'interno della sua barca e galleggiava in mezzo al mare. Ebbene, la prima volta che lo vidi, la cosa che mi colpì fu esattamente questa cosa, fu la tranquillità con cui lui descriveva cose totalmente fuori dal normale, come se fossero le cose più ordinarie della terra. E niente, c'erano 50 nodi, mi sono dovuto issare in testa d'albero perché avevo un problemino alla randa e quindi da solo lui si è tirato su in testa d'albero con la barca che continuava a navigare. Sono queste le cose che più o meno racconta Giovanni Soldini abitualmente o cose che avete sentito come quella che avete sentito da poco e che trovate sul sito di Giovanni Soldini. Giovanni Soldini lo sentiremo in diretta più tardi, esattamente alle 16.35, dopo la borsa, perché sta tentando di fare un altro record. Più o meno se ne è parlato in questi giorni, se ne è parlato perché anche al telegiornale l'ho visto, perché hanno appena passato Cap Horn. Lui e il suo equipaggio sono in 4, stanno cercando di fare, di battere un record, che è un record che esiste da qualche anno, il record di percorrenza della rotta New York-San Francisco, per cui appunto immaginatevi partire da New York, andare tutto a sud, fare tutta l'America Latina, girare doppiare Cap Horn e poi risalire verso nord, rifarsi l'America Latina, o meglio, cioè, più o meno così a occhio, e arrivare a San Francisco. Il record è quello di una barca francese che ci mise esattamente 57 giorni e 3 ore, Aquitaine Innovation. Aquitaine Innovation, non lo so, Yves Parlier era lo skipper che detiene questo record. In questo momento, se andate sul sito maserati.soldini.it, vedete quanto sono in vantaggio sul percorso rispetto a quel record là. Ma di solito i marinai e i naviganti sono molto scaramantici, quindi non ne parleremo più tardi con lui di questa cosa qua. Parleremo solo del concetto di velocità, visto che oggi si parla di quello. Lo facciamo grazie alla storia di Attilio, che parla di velocità sul tartan, sulla pista in questo caso, quindi si parla di 100 metri nella fattispecie, ma lo facciamo anche grazie a Giovanni Soldini, che è in piena velocità in Oceano Pacifico, nel sud-ovest dell'Oceano Pacifico, e sta facendo rotta insieme a tutto il suo equipaggio verso San Francisco. 349-238-6666, oppure voi siete qui, Radio 24 al profilo Facebook, la cosa in cui voi siete più veloci. Che non sia correre sul tartan, che non sia navigare su una barca a vela, se siete veloci a fare la pizza o a compilare un modulo sul vostro lavoro, oppure a correre la maratona, se non sono i 100 metri, i più veloci immagino del vostro gruppo, non del mondo. 349-238-6666. Roberto mi scrive sul profilo Facebook: io sono il più veloce in Vespa. Non so cosa voglia dire, se gareggi o semplicemente non passi un semaforo che non sia rosso. In auto per andare al lavoro, scrive Giulia. La multa lo può testimoniare. Laura, mia madre mi dice sempre che l'unica cosa che ho fatto velocemente nella mia vita è stato nascere. Beh, non è male per la madre quello. E poi Elio, detengo il record italiano di addormentamento. Meno di un minuto da quando poso la testa sul cuscino. C'è gente così, c'è gente così. Ciccio, per gli amici, Renato De Benedictis, un amico di lunga data, quando è capitato di dormire con lui, ma roba proprio che stai parlando con lui, sai, proprio stai parlando. Per cui magari domani, Ciccio, niente. E vi giuro che un attimo prima aveva risposto alla domanda. 349-238-6666, la cosa nella quale siete più veloci al mondo. Avrò avuto circa 9 anni. Avevo deciso che volevo giocare a pallacanestro. Credo fossi affascinato dal fatto che la squadra locale arrivò a giocare in Serie B e lo sponsor era la macelleria più grande della città, dove mia madre comprava le bistecche. Era nata una gloriosa storia sportiva. Purtroppo nel frattempo quella squadra aveva visto la sua parabola presto prendere una china discendente e di vivaio giovanile neanche l'ombra. I miei genitori mi spiegarono che l'alternativa era andare sino a Cantù, ma che purtroppo era troppo lontano. Dunque la squadra era la Patti, che era lo stesso nome della macelleria, e era di Novate Milanese e appunto arrivò a giocare fino in Serie B. Io però non ho mai giocato in questa squadra, ma ambivo a entrare in questa squadra. Poi un giorno l'insegnante di ginnastica disse a mia madre: il ragazzo dovrebbe fare atletica leggera, perché non prova ad iscriverlo? E io dissi perché no, e cominciai. Avevo sempre corso, ovunque, appena possibile. Camminare era troppo lento, e quindi per me era naturale correre. E così scoprii che correre poteva anche avere una ragione, un obiettivo: migliorarsi, sfidarsi e sfidare. I primi allenamenti senza troppo impegno, le prime gare sugli 80 metri. Mi piaceva, ma era solo un gioco, facile. Poi un giorno arrivò sul campo d'allenamento un giovane allenatore, laureato ISEF, istruttore FIDAL, un passato da discreto quattrocentista a ostacoli, una prorompente passione per lo sport e un ancor più grande amore per i giovani. Diventò presto anche una guida per la mia vita e lì si cominciò a fare sul serio, a imparare la tecnica di corsa, ad ascoltare il proprio corpo, a sentire ogni muscolo fare il suo dovere, ogni arto muoversi in armonia e coordinazione. E finalmente a correre più veloci. Ricordo i lunghi inverni a chiamarsi nella nebbia: il recupero è finito, vai al mio via che non ti vedo da qui. Oppure il temuto: sei troppo lento, più veloce. L'aria fredda aspirata dal mantice dei miei polmoni assetati dopo lo sforzo, o la morsa dell'acido lattico che ti pugnalava le gambe e le braccia. Ancora a spalare la neve per aprirsi una corsia e potersi allenare in inverno. Oppure in estate il caldo degli allenamenti, quando ogni 5 minuti dovevi mettere la testa sotto il rubinetto per non cuocerti il cervello. Le mezz'ora alla fine degli allenamenti, passata stesa nello spogliatoio perché di riuscire a rimanere in piedi non se ne parlava. E i tempi miglioravano, sempre più veloce, sempre più veloce. Quando si corre veloci il corpo non ha peso, i piedi sfiorano il terreno, si vola in assenza di gravità. È semplicemente fantastico. Una magia che il tuo corpo e il tuo cervello sanno fare. Correre dava un grandissimo senso di libertà, di leggerezza e di grande carica emotiva. E poi l'anno magico era il 1981. Campione provinciale 100 metri piani, campione regionale 100 metri piani, campione italiano 100 metri piani, record italiano di categoria 100 metri piani. 10.04, miglior prestazione dell'anno sui 200 metri. Avevo 16 anni. Ero felice e solo all'inizio di una promettente carriera sportiva. Correre era diventato essenziale, indispensabile. Adoravo il tartan della pista, il suo colore rosso e le mie scarpette chiodate. Ero felice. Chi avrebbe potuto fermarmi? Poi, a 17 anni, un bel infortunio. E lì la fine ebbe inizio. Medici, cure, soldi spesi, tutto inutile. Non avrei mai più corso così veloce. La vita mi regalava la prima grande delusione e sconfitta, ma queste non erano venute gareggiando. Ancora oggi, dopo 30 anni, sogno una pista di tartan, due scarpette chiodate e il vento sul mio viso. Sei veloce, sei veloce. Make a new coat every day to suit your affairs. Kissing girls in English at the back of the stairs. You're a honey with the following of innocent boys. They never know it because you never show it. You always get your way. Per chi l'ha sperimentata, la velocità credo sia una specie di ossessione. Lo è per tutti quelli che corrono con i mezzi di locomozione, tipo auto, moto, sci, pattini. Ma lo è ancora di più per chi corre solo ed esclusivamente con il proprio corpo. Proprio per quella sensazione di cui parla Attilio, quella che lui definisce volare. Lui dice, quando si corre veloce il corpo non ha peso, i piedi sfiorano il terreno, si vola in assenza di gravità. Tutte le volte in cui si sperimenta la velocità per la prima volta, magari con un mezzo nuovo, la prima cosa che viene in mente è sembra di volare. Ecco perché se si riesce a sviluppare la velocità solo con la forza delle proprie gambe, la sensazione del volo è totale, perché dipende solo dal nostro corpo e non da altri attrezzi. L'estate scorsa un po' tutti, appassionati di atletica e non, ci siamo rifatti gli occhi guardando i 100 e i 200 metri piani alle Olimpiadi di Londra. Due gare brevissime, che durano meno di 10 secondi una e meno di 20 l'altra, per l'esattezza 19 secondi e 32 centesimi. L'uomo della velocità da qualche anno è un ragazzone giamaicano di quasi 2 metri, si chiama Usain Bolt. È bello, simpatico, eppure un po' sbruffone. È talmente veloce che gli altri quando partono gareggiano praticamente per arrivare secondi. Gli ultimi metri lui li percorre quasi sollevato, come se rallentasse la sua corsa. Ma in realtà credo che ormai tutta la massa del suo corpo sia talmente lanciata che anche se non si muovesse arriverebbe comunque da brivio al traguardo. Ricordo bene la notte in cui Bolt fa il suo record del mondo. Anche lì, nei 200 metri, me lo ricordo molto bene perché mentre lo stadio urlava e le persone accanto a me facevano quel gesto con la mano, quello che va su e giù come a dire "va che roba". Ecco, io in quel momento lì ho anche pensato che tutta quella cosa che era appena finita non sarebbe più tornata. E non solo perché di gara dei 200 metri alle Olimpiadi ce n'è una e poi se ne parla dopo 4 anni, ma perché lo stesso Bolt, anche se il giorno dopo l'avesse fatta quella gara lì, 200 metri, non sarebbe stato più lo stesso. La velocità, in tutte le sue forme, è forse la componente più visibile della deperibilità del corpo umano. La velocità è giovane, è passeggera. La corsa perfetta ha a che fare con un corpo perfetto, con la sua totale armonia e potenza. La velocità passa e non torna più. Recentemente, durante uno di quegli infiniti voli transoceanici in cui non riesco mai a dormire e mi sciroppo praticamente tutti i film in programmazione sull'aereo, ho visto un documentario su Ian Thorpe. Thorpe, prima di Phelps, è stato un grande nuotatore, ha vinto 9 medaglie olimpiche, di cui 5 ori e poi svariati mondiali di nuoto. Finché nel 2006, alla giovanissima età di 24 anni, Thorpe si ritira. Tutti rimangono basiti, anche se alcuni spiegano che lo stress a cui sono sottoposti i giovani atleti di quel calibro è tale che la loro vita è solo lo sport che fanno e poco, pochissimo altro. Quando però vedi un atleta così forte, così giovane che si ritira, l'unica cosa che speri è che non gli torni mai la voglia di riprovarci, perché sai che non sarà più la stessa cosa. E il documentario che ho visto parla proprio di questo, parla di come 5 anni dopo, nel 2011, a 29 anni, un'età che appare ancora relativamente giovane, Ian Thorpe, sentendo la mancanza del nuoto, decida di riprovarci per qualificarsi e gareggiare nelle Olimpiadi di Londra. Ecco, voi per caso ve lo ricordate a Londra la scorsa estate, Thorpe? No, e sapete perché? Perché non ce l'ha fatta. È piuttosto triste quel documentario, tutto quello che racconta è terribilmente semplice e spietato. La velocità non ti aspetta, o la cavalchi quando passa di lì, oppure se ne va, comunque, anche senza di te. Oggi si parla di velocità, lo si fa, come avete visto, non in un modo solo, nel senso che la storia di Attilio parla di corsa, poi però io ho raccontato un'altra storia legata alla velocità, che è quella di questo grandissimo, o meglio ex grandissimo nuotatore che è Ian Thorpe, australiano che è stato un fratello della velocità quasi per un certo periodo della sua vita, finché ha deciso di smettere, e a quel punto, quando ha voluto riprendere, la sua velocità era passata. Tutto nasce però perché Attilio, qualche anno fa, nemmeno tanti perché Attilio è giovane, ha 44 anni, qualche anno fa, circa una trentina d'anni fa, era un corridore di quelli seri, di quelli che con la velocità ci aveva a che fare tutti i giorni. Pronto Attilio? Sì, eccomi. Ciao, come stai? Molto, molto bene, grazie. Sembri sulla Luna, dove ti trovi esattamente? Sì, in verità, diciamo, sono in Belgio in questo momento, che è quasi a volte come la Luna, visto che è molto scuro e piovoso, anche se la Luna in verità la pioggia non la vede spesso. Partiamo da là, partiamo dal sedicenne che è uno dei più veloci in Italia all'epoca, no? Perché sei stato campione italiano anche di 100 metri. La mia categoria, certo. Come si arriva? Cosa accade in questi anni, no? Cos'è successo da quando a 16 anni correvi ad ora che ne hai 44 e viaggi per l'Europa dando servizi, eccetera, eccetera, a che fare con la farmaceutica? Ah beh, sono successe miliardi di cose, è successo che comunque ho avuto occasione, nonostante fossi un po' azzoppato, di fare il militare come atleta. Ho avuto l'occasione poi di sposarmi, di separarmi, di fare un figlio con una nuova compagna, di cambiare alcuni lavori e di andare un po' meno veloce, diciamo, e fare solo un po' di jogging quando posso. Ecco, la corsa però, torniamo lì, la corsa è una cosa che frequenti ancora oppure è completamente abbandonata? Sì, assolutamente, diciamo, per quello che appunto posso fare, mi concede anche il mio fisico, è essenziale, è una cosa a cui non riesco a rinunciare. Senti, era il 1981, giusto? Rileggo proprio 81. Le tue parole: campione provinciale 100 metri piani, campione regionale 100 metri piani, campione italiano 100 metri piani, record italiano di categoria 100 metri piani, 10.04. 10.04, no? Scusami. 10 ok, 10.40 in sostanza. Sì, giusto, 10.40. Chi c'era all'epoca? Chi era il tuo riferimento nel 1981? Chi correva? Chi è che andava forte in quell'epoca? In quell'epoca a livello nazionale c'era il mitico Mennea. Ah, parliamo proprio dell'epoca di Mennea. Diciamo, parliamo dell'epoca in cui Mennea rientrò. Vabbè, perché lui aveva smesso di correre per un paio d'anni e poi rientrò e sì, diciamo sì assolutamente, noi sono tantissimi anni, lui ancora era in auge, era quasi a fine carriera e poi dopo qualche anno smise e poi rientrò qualche anno dopo, sì era l'epoca di Mennea. Perché lui il record, il famoso record a Cova, certo, il famoso record sui 200 lo fece nel 78 e non c'è Tiziano Bonini in questo momento che è il super esperto di Olimpiadi, ma ti ricordi quando fece il mega record? Cos'era? 78? No? 78 o 79, assolutamente, sì. Cos'era? Città del Messico? Degli anni. Città del Messico, 1972, sì. 1972 è il tempo? Sì. Ok. Senti, cosa si prova ad essere il più veloce? Si prova che c'è una cosa, è buffissimo perché vieni guardato come se fossi un po' un marziano, dagli altri, prima cosa. E questo ti mette un po' una strana, cioè per uno timido come me mi metteva molto in soggezione, curiosamente, non mi dava invece gratificazione. E poi, ma soprattutto era una sensazione molto intima, molto particolare, di una grande potenza, ecco, una grande forza, una grande potenza, una grande capacità di poter fare tanto col tuo corpo, no? Certo, tua testa, perché la testa conta molto. E senti, quella, per esempio, questa è una cosa che io non sono un atleta, però mi capita di fare gli sport che si fanno più o meno quando si vuole giocare a un gioco invece che fare una corsa e basta. Per cui gioco un po' a tennis, gioco un po' a calcio, calcetto. E questa è l'età, parlo per me che ho 37 anni, quasi 38 ormai, in cui tocchi con mano che il tuo corpo non ti segue più come prima. Perché davvero 2-3 anni fa io mi facevo meno male, avevo molto più fiato. Quando tu ti sei accorto a 16 anni, o meglio dopo l'infortunio, che il tuo corpo non ti aveva già di fatto in età così giovanissima abbandonato, com'è successo? Ma diciamo che in verità il corpo teneva botta bene, perché dal punto di vista puramente fisiologico, così atletico, il corpo non dava nessun problema, era proprio un problema di tipo meccanico, diciamo, no? Che impediva al corpo di esprimersi. Per cui direi che t'accorgi subito, perché appena tu forzi un po' di più senti dolore e quindi non puoi andare oltre. C'è qualcosa, ti piace comunque, ti piace comunque andare forte, o è una cosa che hai sublimato? Per te la velocità è rimasta quella? Vuol dire, appena vedo una pista d'atletica, la prima cosa che vorrei fare è mettermi le scarpette e fare i 30 metri per vedere quanto tempo faccio ancora. Per cui no, è una cosa che rimane rimasta dentro. Però non l'ho espressa facendo altre discipline veloci. Ok, diciamo. Ok. Ti ringrazio, Attilio, grazie per il racconto, grazie per la chiacchiera. Un abbraccio a tutti, arrivederci. Ciao, in bocca al lupo, ciao. Mi confermano di là dal vetro che era il 1979, erano le Universiadi di Città del Messico, esatto. Mennea 200 metri. Ciao, grazie. Voi siete qui. È in montagna Attilio, nella foto che ci ha mandato, che trovate sul sito di Radio 24, dove trovate molto altro, trovate dei pezzi, di tutti i pezzi musicali che mandiamo in onda, trovate uno stralcio del racconto, trovate la mappa che stiamo costituendo attraverso le storie che raccontiamo ogni giorno. Attilio è in montagna, è estate, c'è il cielo azzurrissimo e le montagne che hanno quel colore tra il verde e l'azzurro, perché lo prendono, non lo so perché lo prendono, però forse sono come il mare alla fine, le montagne prendono un po' di quel riflesso lì. Ha su un bel maglione rosso, però e anche la faccia è un po' rossa, deve aver preso un po' di sole Attilio. Ha il capello corto, un po' brizzolato, e ha la boccuccia di chi stava tipo sistemandosi qualcosa fra i denti proprio mentre gli scattavano la foto. Velocità, sostantivo femminile. La rapidità con cui si muove un corpo, data dal rapporto tra lo spazio percorso e il tempo impiegato a percorrerlo. Generico, sveltezza, prestezza, rapidità. Nello sport, gare di velocità. Nel ciclismo, quelle che si disputano su pista sulla distanza di due giri, per complessivi 750 o 1000 metri, e delle quali si cronometrano gli ultimi 200 metri. Corse di velocità in atletica, le corse piane su distanze sino ai 200 metri, velocità prolungata fino ai 400 metri. Etimo, dal latino, velocitas velocitatis, derivato di velox, velocis, velocis, velocis, velocis, velocis. Non è velocis, dai. Insomma, visto che parliamo di velocità oggi, lo abbiamo fatto con un corridore che è stato campione italiano nel 1981, l'abbiamo fatto parlando di Jan Torpe che stava nell'acqua, noi, io in particolar modo, che sono, chi segue il programma più o meno ha idea, c'ho questa cosa della vela e del mare in testa e quindi so benissimo quello che sta succedendo dall'altra parte del mondo in questo momento. Dall'altra parte del mondo e dell'oceano c'è una barca italiana con un equipaggio italiano che sta cercando di fare, di battere un record, che è quello su una tratta che va da New York a San Francisco. Per farlo, immaginatevi un attimo la mappa, devono andare tutto giù e poi tornare tutto su, più o meno. Io l'ho detto male, ma lo dirà sicuramente meglio di me Giovanni Soldini, che in questo momento è al telefono con noi. Pronto, buongiorno Giovanni. Buongiorno. Come va lì? Qua bene, ti procedo. Dove vi trovate esattamente? Siamo in Pacifico, in Pacifico del Sud, a più o meno 30 sud e 100 ovest, che vuol dire vicino all'isola Sala e Gomez, per intenderci, cioè a sud dell'isola, sud-est dell'isola di Pasqua. Più o meno Cile, più o meno ok, più o meno all'altezza del Cile. Quanto manca all'arrivo? Con tutti i gesti scaramantici che noi possiamo fare, ovviamente. Quante miglia mancano? All'arrivo mancano 4300 miglia a San Francisco. Bisognerà vedere in quanto tempo riusciremo a coprirle, perché dipende molto ovviamente dalle condizioni meteo. Certo, 4300 miglia dette male in chilometri sono 8000? 8000 chilometri. Sì. Che velocità ha la barca in questo momento? In questo momento non andiamo tanto forte, andiamo 11-12 nodi, che vuol dire 11-12 miglia all'ora. Ok, che vuol dire più o meno al solito 17-18 km all'ora, più o meno, giusto? Sì. Ho visto un video in cui lei mostrava l'andamento delle tempeste con una scatoletta di cioccolato. Come va a bordo a proposito di provviste? Siete in nave da un mese più o meno? Sì, siamo partiti il 31 dicembre. Mm-hmm. Non è che c'è da fare una vita opulenta qua sopra, diciamo che quello che si mangia è molto basico e le provviste ci sono, ma non è che... Però leggevo sul diario di bordo che Michele oggi ha fatto una super pasta ai quattro formaggi con un solo formaggio. Esatto. Come vi dividete i turni in barca? Uno è 4 ore di turno e 4 ore off. Nelle 4 ore off devi dormire e fare tutto il resto che devi fare, quindi mangiare, scrivere, fare, disfare, guardare la meteo. E poi c'è da dire che quando si fa una manovra anche quelli che dormono si devono svegliare e devono andare sul ponte, cioè quando si manovra tutti fuori. Ah, quindi non c'è turno di riposo che tenga? Sì, se casca un cambio vela mentre tu stai dormendo ti devi svegliare, magari ci metti mezz'ora a farlo. Quant'è il record precedente? Il record precedente è 57 giorni. Un record di Parlier, che è appunto un francese che l'ha fatto una decina d'anni fa, e noi siamo messi bene, direi, come tempi su quel record lì. Adesso purtroppo il mare non si può mai dire, nel senso che può succedere di tutto, può esserci un passaggio dell'equatore molto difficile, può esserci l'alta pressione qua del sud Pacifico, che è abbastanza debole in questi giorni, quindi abbiamo poco vento. Perché questo... speravo di averne di più. Certo, bisogna vedere. Questo, insomma, per fare capire, di solito voi cercate le basse pressioni, no? Cioè cercate dove non c'è proprio bel tempo, sole e si sta tranquilli, cercate i punti in cui c'è più vento e più pressione, giusto? Sì, no, beh, il problema è che in una rotta così c'è di tutto, no? Siccome attraverso il mondo da nord a sud due volte, devi farti due volte l'equatore, devi farti le zone di alte pressioni, di basse pressioni, tutto, quindi devi andare forte sempre. Com'è Cap Horn vista dal mare? È molto affascinante, sicuramente. È un posto anche molto ostico, nel senso, soprattutto fatto in questo senso, cioè dall'Atlantico al Pacifico, è fatto controvento, controcorrente, quindi è un passaggio molto difficile. E qual è stato il momento più complicato fino ad oggi della navigazione? È sicuramente tutta la parte bassa del percorso, quindi diciamo da dopo Mar del Plata fino adesso. Cioè. E adesso che tempo c'è? Che clima c'è? Come state? In maglietta? In cerata? No, adesso sta bene, sta caldo, perché siamo a 30 sud, nell'estate... sudamericana. Siamo in piena estate, e quindi qua adesso ci saranno 20 gradi, stiamo con la giacca normale, ma insomma si sta bene. L'ultima cosa e poi la lascio tornare alle sue cose o al suo turno di riposo. Perché lo fa? Immagino che gliel'abbiano chiesto un sacco di volte, ma perché si sta in mare così tanto, prima da solo, adesso in equipaggio? Perché si vuole battere un record? Qual è l'obiettivo che uno cerca realmente di raggiungere? Beh, perché mi piace, per esempio. È una cosa che mi piace. E questo è un record che mi ha sempre affascinato molto, perché è un record storico che nasce appunto con gli Stati Uniti, con la corsa all'oro, con la scoperta dell'oro e con la scoperta della California. La barca che l'ha fatto nell'Ottocento è uno dei clipper più famosi del mondo, si chiama Flying Claude, ha fatto un tempo di percorrenza allora strabiliante, poi per tutto il Novecento hanno provato a abbassare questo tempo senza riuscirci, fino a quando alla fine degli anni 70 una barca si chiamava Hunter Child, che nella mia adolescenza e giovinezza è stata una barca secondo me molto rivoluzionaria e molto all'avanguardia, è riuscita per prima a battere questo record che è diventato un mito per noi velisti, e quindi l'idea di venire a provare a batterlo è un'idea che viene da lontano, no? Certo, è una bella sfida. Mancano 4600 miglia, in bocca al lupo a Giovanni Soldini e a tutto l'equipaggio di Maserati per l'arrivo a San Francisco. Grazie ancora e buon vento. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Ciao. Ah, And you said you didn't care about distance, that being miles apart didn't make any difference. I told you I was slow, and you thought that it was fun, and I said, well, I'd rather walk than run. Sono esattamente 8.933 miglia, le miglia percorse fino a questo momento dall'equipaggio di Soldini. E sono 29 giorni, 23 ore, 17 minuti e 56, 7, 58 secondi, è il tempo di navigazione. Ecco, per farvi capire, rispetto allo scorso record, in media, a parità di tempo trascorso, cioè quasi 23 giorni di navigazione, in media le miglia marine percorse da Aquitaine, cioè dall'altra barca, erano 6.938 contro le 8.933 di Maserati, di Giovanni Soldini e del suo equipaggio. Se avete voglia di sapere qualcosa di più, sul sito c'è tutto, ovviamente, ed è maserati.soldini.it. Visto che qualcuno me lo chiedeva, tra l'altro credo che Soldini fosse una specie di camera stagna e insonorizzata, perché non si sentiva nulla. Di solito quando una barca in navigazione fa un bel casino, invece c'era un silenzio assoluto. E per quelli che mi chiedevano, a proposito di Ian Thorpe, il documentario, per l'esattezza, si chiama, l'avevo trovato, eccolo qua, Ian Thorpe the Swimmer, il nuotatore. Lo trovate, in TV è difficile, ma trovate tutto online, ovviamente. Se scrivete Ian Thorpe the Swimmer lo trovate probabilmente su YouTube, c'è già tutto intero ed è un gran bel film. 349-238-6666, la cosa in cui sono più veloce, sono velocissimo a planare col windsurf. Anna da Frosinone, una delle cose in cui sono più veloce è cambiare umore, sono più veloce a contare le lettere delle parole. Ah certo, quelli che ti dicono quante, quelle robe assurde, tipo saperle dire al contrario. Pochi lo sanno fare, però è sempre stupefacente. E sono più veloce a stendere l'asfalto con la finitrice. Saluti da Alessio, dalla A1, che ci starà ascoltando in questo momento sulla finitrice. La finitrice me la immagino un po' tipo un grande trattore, cioè è quella roba che passa. La finitrice, Rudy, è inutile che fai così. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata, a Tiziano Bonini, Margherita Ina e a Fabio Cantadori. La storia di oggi era la storia di Attilio, e anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Christopher, abito a Genova. La storia di domani è la mia e descrive quello che accade in una chiesa dedicata a John Coltrane e in particolare a Love Supreme. Questa è la mia storia e io sono qui. Ci sono molti modi per ascoltare Voi Siete Qui. Uno è in diretta ed è quello che state facendo in questo momento. Ma se ve lo siete persi o se proprio non potete ascoltarlo, non disperate, ci sono i podcast. Se ad esempio vi scaricate i podcast di questa stagione, tenetevi forte perché potete sentire cose come queste. Aspetta, ma è 349 quello giusto, ok? Oggi faccio una cazzata. 349, ok. Se invece queste cose vi hanno fatto schifo, potete sentire cose come queste. Libertà significa essere liberi di pensare quello che vogliamo, di non imporre le proprie credenze agli altri. Perché sì, è vero che ogni storia è la nostra storia, ma scaricandocela in podcast la possediamo per sempre.